Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta anche oggi dalla Fiera di Bari. Grazie Fiera del Levante, grazie Bari per ospitarci. Eravamo qua anche ieri e tutta la settimana alcuni programmi della radio hanno trasmesso da qua, da questo importante avvenimento. E allora ci ritroviamo, noi diciamo così, insomma il nostro antidoto contro le cattive notizie. Se vi sentite scoraggiati dalla settimana della cronaca, allora seguiteci che vi porteremo per altri sentieri. Vi ricordo anche di andare sulla bacheca Facebook del programma per lasciare le vostre buone notizie durante la settimana. Si può fare trattino Radio 24, siamo già in tanti, diventeremo ancora di più se continuerete a cliccare mi piace. E insomma anche questo volevamo dire oggi in partenza. Cominciamo subito con alcune notizie della settimana. Il primo villaggio in Italia per minori alternativo alla prigione, questa è davvero una buona notizia, sorgerà a Brescia. Si chiamerà servizio residenziale di pronto intervento per minori, è un'alternativa al carcere pensata e studiata per ragazzi in difficoltà. Sarà la prima esperienza di questo tipo in Italia, ha detto l'assessore Giorgio Maione. La notizia la riporta il Corriere di Brescia. L'idea è semplice: invece di rinchiudere gli adolescenti dentro le mura del carcere Beccaria, si sperimentano pratiche di rieducazione, come prevede la Carta Costituzionale. Questa è senza dubbio una buona notizia. La prossima segnalazione, la prossima notizia è sotto il capitolo, possiamo intestarla così: l'arte contro il degrado nelle città. Ieri, se ci avete seguito in chiusura, abbiamo parlato della storia di Vicenza, che ha aperto le sue strade agli artisti di strada, per l'appunto, abolendo tutti i permessi, tutto libero, senza costi per nessuno, per rallegrare così la città. Invece questa notizia viene da Firenze: tre murales contro il degrado, graffitari in azione a Firenze. Il Comune ha approvato una delibera per promuovere l'arte di strada. Saranno messi a disposizione dei graffitari tre aree della città da riqualificare. Per chi è della città, le aree sono quella nei pressi della piscina Costoli in Viale Paoli e poi nella zona del sottopasso e tutti i muri circostanti di Piazza Alberti. Insomma, l'arte al servizio della città contro il degrado, questa era la notizia che veniva da Firenze. La prossima notizia è una opportunità per giovani padovani, forse non solo padovani. Un concorso per i giovani under 35 di Padova inventa una app. Insomma, diamo anche qualche segnalazione per trovare qualche sbocco professionale per i giovani. L'iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio di Padova e dal Comune, è finalizzata a favorire e stimolare la creatività di giovani studenti, universitari o lavoratori che vogliano contribuire al progresso e all'innovazione con una loro idea di app per smartphone e tablet. Le app più innovative potranno essere sviluppate concretamente da chi? Dall'azienda ENIAC, che è un'azienda specializzata in software house e web factory. Tutte le informazioni per partecipare a questo bando le trovate su www.eniac.it/startup con 2P. E così siamo partiti da queste buone notizie di questa settimana. Allora, vi ricordo che potete durante la settimana lasciare il vostro contributo, le vostre buone notizie, le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto alla nostra segreteria telefonica 800 28 12 12. Questa settimana, sapete, il governo ha approvato un disegno di legge contro la cementificazione nei terreni agricoli. È una cosa importante, la salvaguardia del nostro patrimonio. Si comincia a parlare anche di riqualifica del territorio e del patrimonio edilizio esistente. Sentite che cosa ci aveva lasciato in segreteria telefonica qualche tempo fa un nostro ascoltatore. La mia ricetta, invece di dare soldi alle banche che poi riacquistano titoli di Stato, darei grossi incentivi a chi sostituisce i tetti in Eternit. Forse ridurrebbe i casi di mesotelioma pleurico con riduzione delle sofferenze umane e risparmio di soldi per le cure del tumore. Di campi dove investire ce ne sono molti, suggerirei la sistemazione della rete idrica. Penso alle regioni del sud che hanno l'acqua ad orari. Grazie. Vi ringrazio molto perché ci date la possibilità di dare un contributo e la gente ha voglia di dare un contributo, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti seriamente e purtroppo nella politica non riusciamo a trovarli. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Abbiamo scelto questo sottofondo musicale perché il primo approfondimento di oggi ha a che fare con la gente, con la partecipazione. Sentite qua questo appuntamento, il 13 settembre è partita da Strasburgo la Good Food March, una marcia attraverso il Belgio che si concluderà a Bruxelles il 19 settembre. Agricoltori, cittadini, giovani porteranno le proprie richieste per una riforma della politica agricola comune direttamente alle istituzioni europee. La buona notizia è proprio in questa partecipazione della gente per un tema tanto importante che ha a che fare con quello con cui mangiamo, quello che mangiamo ogni giorno sulle nostre tavole, un tema tanto importante quanto generalmente poco discusso. La Good Food March, che fa tappa simbolicamente oggi anche a Napoli. Ci colleghiamo con Tommaso Mattei, responsabile rete giovani Slow Food Napoli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E allora, prima di tutto, Tommaso, se vuoi spiegarci il senso di questa Good Food March che coinvolge un po' tutta l'Europa, e che cosa si vuole simboleggiare, che cosa si vuole testimoniare a Bruxelles. Tra l'altro, diciamo anche una cosa importante contro lo spreco del cibo, che questa sia una cosa molto importante, lo capiscono tutti. Tommaso. Esatto, l'obiettivo di questa iniziativa è stato soprattutto dare visibilità a questa tematica che appunto è molto difficile da spiegare. È difficile spiegare come la struttura, come diciamo il modo in cui il cibo viene prodotto e viene acquistato possa avere poi influenze a cascata su aspetti vastissimi che vanno dalla salute alla cultura, all'ambiente, all'economia, anche alla democrazia. Questa iniziativa che è stata fatta, voluta soprattutto da ragazzi ma anche da agricoltori che hanno attraversato diciamo tutta l'Europa fino ad arrivare a Bruxelles, voleva sia da una parte spiegare cos'è la PAC ma anche da un'altra parte cercare di raccogliere delle richieste semplici, immediate, da portare poi al Parlamento europeo. Benissimo. E quali sono le richieste esattamente che vengono fatte? Insomma, si cerca, credo di aver capito, di portare avanti un'agricoltura più sostenibile, più legata ai bisogni delle comunità, a volte meno intensiva, che proponga il biologico, insomma, cose che fanno bene alla gente, questo? Esatto, diciamo a parte alcuni aspetti tecnici legati alla struttura proprio della politica, diciamo le cose più semplici, più immediate sono sia il desiderio anche degli stessi più giovani oggi di poter avere accesso a cibo sano, identificativo del proprio territorio che molto spesso oggi è veramente difficile trovare, ma anche da una parte vedere la terra, l'agricoltura come un'opportunità professionale anche del futuro a cui poter accedere più facilmente di oggi, dove ci sono comunque soprattutto per i piccoli e medi, le aziende di piccole e medie dimensioni, di forti ostacoli burocratici all'ingresso ma anche nel momento, insomma, nell'attività di tutti i giorni. E quindi tra l'altro, sì, Tommaso, vogliamo dire che insomma il tema dell'alimentazione, dell'agricoltura, dei mestieri che ruotano attorno anche a questo settore sono importanti. Tu sei un caso perché sei passato a lavorare, credo, a un settore finanziario, mi dicevi prima di fare l'intervista, proprio a questo settore, e ti stai ricavando anche una tua professionalità. Dunque il messaggio può essere anche che su questo tema si può creare occupazione, si può creare professionalità. Assolutamente, basta vedere che per quanto riguardano i mestieri per esempio dell'artigianato gastronomico come i panettieri, i pasticceri, in un momento di forte crisi occupazionale in Italia c'è in realtà una domanda di queste figure professionali che non riesce a trovare una giusta risposta, cioè ci sono mestieri che vengono richiesti ma che non si possono dare perché non ci sono queste figure professionali poi che sono al di là del lavoro, diciamo, tecnico che svolgono, sono anche portatori di messaggi culturali, di tradizioni, che poi sì, sono la base di comunità territoriali. Allo stesso meglio, Tommaso, per farci capire meglio anche dagli ascoltatori, vogliamo fare un esempio e raccontare l'evento oggi a Napoli, che ruota attorno a che cosa? Tu mi dicevi a questo orto di Capodimonte che sta diventando un laboratorio, un centro, diciamo, dove si sperimenta che cosa? Esatto, all'interno del Bosco di Capodimonte, che tra l'altro una delle zone museali più visitate, diciamo, sicuramente in Campania ma anche in Italia, si sta cercando di recuperare attraverso un progetto voluto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, diciamo, le antiche tradizioni, sia orticole che per quel che riguarda le porcellane di Capodimonte. Quindi un progetto che in una zona periurbana, perché siamo veramente vicini al centro della città, va a reinserire in quelli che erano diciamo, l'orto della famiglia rurale, della famiglia reale, dei prodotti tipici del nostro territorio, come per esempio il pomodoro San Marzano, il fagiolo cannellino, la papaccella, che è un tipo di peperone particolare che trova qui in Campania il suo ambiente ideale. Allo stesso modo, accanto ai prodotti orticoli c'è un recupero della tradizione artigiana per quel che riguarda le porcellane di Capodimonte, che sono tutti progetti volti a ridare alla città, soprattutto alle giovani generazioni, modo di sapere cosa c'era effettivamente nella loro città e tutte la cultura, le tradizioni e anche le possibilità, appunto, di sviluppo future che ci sono oggi. E allora staremo a vedere in quanti arriveranno davvero a Bruxelles per questa Good Food March, che arriverà e si concluderà il 19 settembre. Vedremo poi che esiti ci saranno. Ci sarà un incontro anche con il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Grazie intanto al responsabile della rete Giovani Slow Food di Napoli per essere stato con noi. Facciamo una pausa per il traffico. Torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, quando parliamo di queste cose qua non possiamo non mettere la canzoncina dello Zecchino d'Oro, il contadino, un mestiere che esercita ancora un grande fascino sicuramente tra i bambini, ma non solo. La buona notizia di questa settimana a proposito, e l'abbiamo già sfiorata con il collegamento di prima con i temi della politica agricola europea, è questa, in realtà è di qualche giorno fa. L'unico settore in controtendenza nel 2012 in Italia per quanto riguarda la crescita economica, il mantra del PIL, è l'agricoltura, che ha segnato un più 0,4% sul piano tendenziale, cioè nell'ultimo anno è cresciuta. Laddove tutto diminuisce, l'agricoltura cresce. E anche per quanto riguarda l'occupazione, l'agricoltura riesce a dare occupazione, pensate, un più 6,7% delle assunzioni di dipendenti impegnati in campagna. Uno dei tanti modi in cui questo mestiere, questa occupazione si può declinare, lo stanno sperimentando a Padova. Conoscere le piante e i prodotti della terra con i mercati contadini. Una iniziativa voluta dagli agricoltori e dalla Camera di Commercio. Che cosa fanno? Fanno una serie di corsi gratuiti dove si insegna che cosa? Conoscere le piante, la frutta, le verdure e anche le ricette, come coltivare le cose di stagione. Allora noi abbiamo convocato Alvise Destro. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che è lei che cosa fa nella vita normalmente, oltre a fare questi corsi? Ma io, guardi, insegno, sono insegnante. Sì. Insegno in un istituto agrario a Padova e poi per passione mi occupo di piante officinali, montagna. Infatti adesso vi parlo della Valle d'Aosta. Ah, che bello. Dove mi sto dedicando, insomma, alla coltivazione delle piante. Ieri sera ho partecipato a un incontro dove parlavano dei vecchi rimedi, les anciens remèdes, in un paesino qui vicino, insomma. Quindi ci divertiamo. Quindi lei così, è insegnante, diciamo, e anche contadino in qualche modo. Ma sì, insomma, mi appassiona, lo faccio volentieri, insomma, mi rilassa anche. Ecco, io potrei anche dare le date degli appuntamenti che sono previsti ancora a Padova, magari adesso ci arriviamo, vado a vedere nel comunicato. Comunque altri corsi si terranno il 21-22 settembre, il 2 ottobre fino al 10 ottobre, altri si sono già tenuti. Dove li fate prima di tutto questi corsi, signor Alvise? Dove li facciamo? Sì, cioè vi improvvisate lì in mezzo al mercato oppure in mezzo alle cassette di frutta? Nella piazza dove si fa il mercato, sì. Si cerca una zona centrale, diciamo, dove attirare clientele, persone interessate, e lo facciamo là. E chiunque passa ed è interessato e appassionato al giardinaggio, all'agricoltura, si ferma. E ecco, ma siete più voi a proporre delle cose, delle questioni, oppure sono più le persone che, sapendo di questa iniziativa, vengono e chiedono, fanno richieste? Insomma, sono soprattutto le persone. Noi iniziamo con degli argomenti, diciamo, però poi si spazia dall'erba officinale all'orto in terrazza, alla coltivazione, che ne so, di piante da frutto. Poi alla fine c'è un grosso dibattito, insomma, generalmente sulle malattie, sulla concimazione, insomma, ci divertiamo. E quali sono le richieste più strane che le hanno fatto? Ripeto, Di strane non ce ne sono, perché insomma il problema di chi ha la passione dell'agricoltura, sì, e del giardinaggio è sempre uno, il fatto che ha a che fare con l'ambiente esterno, dove ci sono insetti, ci sono patogeni. Le minacce, le avversità, batteri, come combattere le avversità? Le avversità, ecco, sono quelle, oppure sulla concimazione, insomma. Le piante sono sempre esseri viventi, vanno nutrite e non dobbiamo dimenticarsi di questo. Mm. E, insomma, lei che si occupa di questo, insomma, crede che negli ultimi tempi sia cresciuta un po' la sensibilità su questo? Cioè c'è più gente che si interessa, si ritorna a discutere di cose che davamo per scontate? Credo proprio di sì. Insomma, come diceva poc'anzi lei, il settore agricolo è un settore che di fronte a questa crisi, insomma, si è comportato bene, si sta comportando ancora bene. Io sono, le ripeto, in Val d'Aosta e ho visto moltissimi agricoltori giovani che si stanno avvicinando a questo settore, iniziando a coltivare anche in montagna, in zone dove magari non si era mai coltivato, e sono realtà che insomma stanno prendendo piede e rendono, anche se ben fatte, insomma, con criterio. Sì, e possono anche contribuire, diciamo, a migliorare la tenuta delle tasche familiari, cioè una forma anche di risparmio, perché si impara a conservare gli alimenti, i prodotti, si impara a cucinare cose di stagione che magari costano anche meno al mercato. C'è anche questo versante in tutto ciò? Ma direi proprio di sì, insomma, di fronte a questa crisi, avere la possibilità di coltivarsi qualcosa, anche in terrazzo, semplicemente in terrazzo, contribuisce al bilancio di fine mese, e in più, insomma, uno cerca di nutrirsi, di mangiare con cose sane, che sa come ha coltivato. E insomma, cari ascoltatori, se volete, noi ringraziamo Alvise Destro che è stato con noi, se volete i corsi a Padova ci sono ancora fino al 10 ottobre, c'è un elenco e gli appuntamenti li trovate se andate a cercarli, se volete sapere come combattere le avversità, le minacce delle vostre piante, o se volete coltivare qualche cosa in terrazza o in giardino, andate, ci saranno persone gentili e cordiali e disponibili come il signor Alvise che ha appena parlato con noi. Grazie. Buon lavoro lì in Val d'Aosta. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica. Adesso la prossima storia che vi vogliamo raccontare è la storia di un uomo che ha superato moltissimi limiti umani ed è per questo un'incarnazione vivente del nostro motto, si può fare. Parliamo di Walter Bonatti, un anno fa, il 13 settembre, moriva a Roma, aveva 81 anni, un grande scalatore, poi esploratore, scrittore. Il fatto è che Bonatti morì da solo perché alla sua compagna, l'attrice Rossana Podestà, a cui era stato legato per oltre 30 anni, non fu permesso di condividere l'ultimo i momenti della sua vita. I due infatti non erano sposati. Questo bastò ai medici di una clinica privata romana a non permettere alla compagna di Bonatti di stargli vicino in un momento naturalmente così drammatico, così difficile. Lei ha scritto un libro, Una vita libera, ha detto: quello è stato uno dei momenti più dolorosi della mia vita. L'ha intervistata il nostro Dario Ceccarelli. E Rossana Podestà, un anno dopo,

sipuofare@radio24. Vi aspettiamo anche lì e poi alla segreteria telefonica potete lasciare la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto al numero 800 28 12 12. Adesso è arrivato il momento delle nostre previsioni economiche, possibilmente sempre con ottimismo guardando al futuro. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. Parlano fra loro i tulli, tulli, tulli, tulipan. Mormorano in coro i tulli, tulli, tulli, tulipan. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Tulipan, abbiamo scelto questo tappeto musicale perché la parola chiave delle previsioni economiche dell'avviso ai naviganti di oggi è tradizione. Tradizione e mestieri da riscoprire. La strada per creare in Italia nuovo lavoro, nuova occupazione. La tradizione spesso in Italia è tradizione agricola. La notizia è questa: grazie al progetto LIFE, lavoro, integrazione, formazione ed economia, questa è la sigla, è tornato a fiorire sulle colline del Piceno l'anice verde per produrre la storica Anisetta Meletti. La prima bottiglia di questo liquore da aperitivi risale al 1870, dunque una tradizione che rinasce tutta made in Italy grazie a che cosa? Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Paola Beatrice Amadio della cooperativa Ama Aquilone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. In sostanza che succede? Che voi siete andati, una cooperativa che impiega persone affette da dipendenze, che quindi sono in assistenza lì da voi, curate da voi, e che cercate anche di reinserire nel mondo del lavoro, siete andati dal signor Meletti, quello che produce questa anisetta, e gli avete detto, perché non ve la facciamo noi l'anice invece di importarlo dalla Siria? È così che è andata? Sì, esattamente, è andata proprio così. Noi come cooperativa abbiamo all'interno un servizio dedicato alla formazione, all'orientamento e all'inserimento lavorativo delle persone nostre ospiti, chiamiamo così. Ci avvaliamo anche della collaborazione di un'agronoma, la dottoressa Valentina Swin, che ha avuto questa idea. E a lei che è venuta l'idea? Sì, esattamente, ha avuto quest'idea geniale. Abbiamo intorno alla cooperativa, noi abbiamo, ci occupiamo anche di agricoltura biologica e quindi abbiamo pensato, perché no, di contattare il titolare della ditta Meletti e unire un po' il profit con il no profit. E avete trovato ascolto, molto ascolto. Sì, sinceramente non ce lo aspettavamo. Valentina ha inviato un'email e nel giro di due giorni il signor Silvio Meletti ha proprio lui in persona, l'erede di questa tradizione. Esattamente, esattamente, perché l'anice in questa zona è un anice molto buono, è molto profumato, viene anche chiamato la quintessenza, un profumo particolare che rende l'anisetta migliore. Così particolare, certo. Esattamente. Il problema è che da ormai diversi anni c'è una coltivazione ad uso autoconsumo familiare, non una coltivazione intensiva. Per cui Meletti ha pensato, anziché comprare l'anice all'estero come attualmente fa e ha fatto fino a poco tempo fa, di affidare alla cooperativa Ama Aquilone una parte della produzione dell'anice. Ovviamente. E così l'anice potrà tornare a essere made in Italy. Voi avete, ci vorrà un po' probabilmente perché avete iniziato con una, mi diceva, con una coltivazione poco più che sperimentale, avete verificato che è andato tutto bene, a marzo la semina, pochi giorni fa, credo di aver capito, avete consegnato i primi semi di questa preziosa anice alla ditta Meletti. Com'è andata? Ma guarda, è andata molto bene, tenendo conto che tra l'altro è stata un'estate molto molto molto calda, per cui qualche seme è andato disperso e le previsioni non sono poi state così rispettate, però insomma siamo contenti, primo perché abbiamo dovuto studiare, soprattutto Valentina e i ragazzi, perché merito è anche quante dei ragazzi. Persone avete impiegato e pensate di impiegare, se andrete avanti, come mi sembra di capire, in questo progetto di coltivazione dell'anice? Sembra una cosa così, no? da vecchio film, da storia quasi di colore, ma in realtà si tratta anche di un'opportunità per dare lavoro a delle persone, lavoro in campagna, e produrre poi un prodotto, ripeto, che ha un suo mercato e che fa parte anche del nostro Made in Italy. Quindi parliamo di una cosa che è anche seria, però fa sorridere, perché l'anice sulle colline del Piceno uno se la immagina così come una cosa bucolica. Però quante persone avete coinvolto in questa iniziativa? Guarda, in questa prima sperimentazione abbiamo coinvolto 14 ragazzi ospiti, tra uomini e donne. Sono 11 uomini e 3 donne all'incirca, di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Tenga conto che l'anice va raccolto tutto manualmente, per cui insomma è un grande lavoro da fare, perché bisogna anche tenerlo ben pulito, evitare che si infesti con altre piante che possono essere simili alla pianta al momento della fioritura dell'anice. I ragazzi sono stati bravissimi, tutti e 14, molto entusiasti, e abbiamo consegnato in questa prima fase di sperimentazione alla ditta Meletti circa 200 chili. Quando ci sarà, signora Amadio, la prima bottiglia di anisetta Meletti prodotta con l'anice di nuovo italiano fatto da voi? Ma guardi, tra poco inizia la distillazione, quindi la bottiglia immagino che non potrà essere sul mercato prima di 6-7 mesi, quindi per il 2013 ci sarà un'anisetta Meletti prodotto con anice locale, con il contributo della cooperativa sociale Amaquilone e anche della Fondazione Prosolida, che ci ha finanziato in parte il progetto. Insomma, lei ci crede che tradizione e agricoltura contro ogni aspettativa, si parla sempre dell'università, della ricerca, dell'innovazione, dell'industria come temi su cui puntare per lo sviluppo, invece che la tradizione e l'agricoltura possano essere per l'Italia e per alcune zone in particolare anche dei volani per lo sviluppo locale, piccole cifre, tutto quello che volete, però insomma si tratta pur sempre di persone che hanno trovato un'occupazione, uno sbocco sul mercato. Lei ci crede in tutto questo? Assolutamente sì, soprattutto, come diceva lei ora, tenendo conto che le persone impegnate sono persone a rischio di esclusione. Quindi c'è anche questo valore aggiunto in più, certo. Esattamente, una doppia soddisfazione, una soddisfazione perché comunque produciamo un prodotto agricolo che non era più disponibile nel mercato locale, lo facciamo con il contributo dei ragazzi e quindi anche questo ha un suo valore terapeutico aggiunto, oltre che professionale di inserimento lavorativo, che ha sicuramente la sua importanza, però insomma la motivazione, la convinzione, il saper fare, il recuperare anche certi metodi agricoli, perché sì, tutto molto rudimentale, non è che si utilizzano macchinari di ultimissima generazione, solo una seminatrice di precisione, e poi tutto il resto viene fatto a mano, e per fare questo a mano e per consegnare un anice ottimo sono necessarie anche delle conoscenze, delle competenze, certo, che si acquistano grazie a questo laboratorio, alla professionalità dell'agronoma Valentina, che segue passo passo i ragazzi, segue la coltura, la semina, la raccolta e i rapporti ovviamente poi con il mercato finale. Che nel e caso poi appunto prodotto. Staremo a vedere se l'anisetta prodotta sarà gustosa, più gustosa, perché tutta made in Italy, e quindi insomma staremo a vedere quando ci saranno le prime bottiglie prodotte con anice di nuovo fatta lì nelle Marche. Grazie a Paola Beatrice Amadio della cooperativa Amaquilone, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, naturalmente ci sentiremo più avanti quando magari arriverete sul mercato, e questa sarà un'altra buona notizia. Buona giornata intanto. Anche a voi. E allora noi facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo e lanceremo una nuova rubrica. Come è andata a finire? Andiamo a rivisitare una notizia che abbiamo lanciato noi stessi qualche mese fa, e questa volta si trattava di un'iniziativa benefica a favore dei terremotati dell'Emilia Romagna. Si dice spesso, sì, ma poi come va a finire? Ma poi questi soldi raccolti come vanno a finire? State a sentire. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, poi amare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti, rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si chiamava Earthquake l'iniziativa lanciata qualche mese fa, qualche settimana fa, a favore dei terremotati dell'Emilia Romagna, giocando sul significato della parola earthquake, cioè terremoto, e qui era l'arte al servizio dei terremotati. Si annunciava un'iniziativa che, attraverso la raccolta di opere d'arte donate da artisti, avrebbe dovuto fornire linfa e sostegno economico a 3 comuni di Rolo, Cavezzo e Quistello. E noi abbiamo convocato il critico d'arte Alberto Agazzani, promotore di questa iniziativa, per chiedergli un rullo di tamburi come è andata a finire. Buongiorno. Buongiorno Agazzani. Come è andata a finire? È andata a finire molto bene. Perché? È andata a finire molto bene, nel senso che questa prima parte è andata a finire molto bene, nel senso che da questo germoglio iniziale stanno nascendo altre iniziative analoghe, per cui Earthquake 2.0 presto ripartirà e sullo stesso modello cercherà di aiutare ulteriormente, più di quanto ha fatto finora, questi 3 comuni colpiti dal terremoto. Quindi avete fatto germogliare altre iniziative, però quelle inizialmente lanciate, sì, mi diceva che hanno già prodotto una cifra, le opere d'arte sono arrivate, sono state donate dagli artisti e credo che si tratti di circa 800 opere. Circa 2000 800. Sono stati i visitatori. Ci dica lei i numeri, insomma, è anche quello che avete raccolto, perché si parla di quasi 100.000 euro. Allora, c'è circa 800 le opere donate da artisti, sì, da ogni parte d'Italia e di ogni livello, dai grandi maestri a semplici dilettanti amatori. Quindi, mi scusi, la prima buona notizia è che gli artisti hanno risposto e sono arrivati consegnando a voi queste opere d'arte, che poi sono state esposte ai chiostri di San Domenico e Reggio Emilia, così? Esatto, sono state esposte nel prestigioso spazio del Comune di Reggio Emilia durante il mese di luglio e agosto. La rassegna si è chiusa il 5 di settembre scorso, sì, e i numeri sono presto detti. Quasi 200 opere, più di 200 opere travendute e assegnate attraverso la lotteria e 93.000 euro ad oggi raccolti. E tra l'altro lei mi diceva che di questa raccolta, che era stata prevista, finalizzata ai comuni di Rolo, Cavezzo e Quistello, c'è stato un sindaco che immediatamente vi ha detto, prima ancora che si entri nella disponibilità di queste cifre, dateci una mano subito con quello che avete raccolto, perché sennò dobbiamo posticipare l'apertura delle scuole. Una bella storia nella bella storia, mi verrebbe da dire. Ecco, questo è stato l'aspetto che ci ha veramente più emozionato e più colpiti, perché prima della chiusura della manifestazione il sindaco di Quistello ci ha, nel Mantovano, ci, sì, ha chiesto, supplicato un anticipo per finire i lavori di messa in sicurezza della scuola, in modo da garantire l'apertura regolare dell'anno scolastico. Stessa richiesta è avvenuta dal sindaco di Rolo e dal sindaco di Cavezzo, e quindi ancora prima che la manifestazione chiudesse i battenti noi abbiamo versato 60.000 euro, 20 ai 3 comuni, sì, che così hanno potuto iniziare, potranno iniziare domani regolarmente l'anno scolastico. E questo ci, senta, ha veramente riempito, sì, riempito di gioia, di soddisfazione, ci ha fatto sentire immediatamente utili. Senta Agazzani, che è anche vicepresidente, Alberto Agazzani, dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, promotore di questa iniziativa, Le voglio fare due domande, abbiamo due minuti in chiusura. La prima è di rilanciare quali sono i canali, i contatti per poter portare avanti, lei ha detto volete far germogliare questa iniziativa in altre iniziative. Come si fa? Allora, Artquake continua online, con una vendita online alla pagina www.artquake.it. Esiste un gruppo su Facebook chiamato sì. L'arte della solidarietà, che è un po' quello dal quale è partita per gioco l'iniziativa. Mi permetta solo un ringraziamento che non è formale. Io voglio ringraziare ufficialmente, formalmente, lo Zonta Club International di Reggio Emilia, che è un club certo, service sì. di sole donne, e la sua presidente, l'instancabile presidente Fulvia Coli, perché loro non solo hanno gestito a livello pratico con la presenza in sede lo svolgimento della mostra, ma hanno si sono occupati di tutti quegli aspetti, e sono infiniti, inaspettati e anche da un certo punto di vista incredibili aspetti fiscali che stanno dietro a questa operazione, che è avvenuta nella massima chiarezza. Il 100% del ricavato andrà alle popolazioni colpite, consegnate. Benissimo, Gazzani, purtroppo dobbiamo chiudere, io devo chiudere perché poi abbiamo la pausa e il giornale radio. La ringrazio e magari grazie torneremo a ancora a vedere come germoglierà questa iniziativa Artquake. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo dato spazio a questa bella notizia che è andata a finire bene. Ringrazio Franco Piantanini in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Giorgio De Luca per l'assistenza oggi in diretta, Carmelo Lauricella in regia a Milano, Michelino Previato qua alla Fiera del Levante di Bari e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti, buona domenica.